come ti ho detto, tra l'altro ci ho iscritto anche nel programma, anche in quello nuovo che ho scaricato, che è meglio anche di SDR Sharp. C'è scritto che rubano parecchie risorse comunque, quindi tutto questo casino può essere imputato tranquillamente al fatto che c'ha poca memoria e che è vecchio e quindi non riesce a supportare questi programmi che sono abbastanza recenti, ecco. Quindi vediamo un po', proprio questa chiavetta è una penitenza, tu vedi filmati in cui ricevono i satelliti e fin lì forse ci può anche andare, anche se è più complesso, ma in HF è giusto qualche broadcasting, guarda, ti prendi una Degent e va 100.000 volte meglio. Vabbè, dai, adesso ce l'ho, usiamo quella di poi, se ci evolve la situazione se ne va. Sì, anche perché oramai io oramai penso un po' a quelli riciclati garantiti, no? Perché dipendono da aziende o da quelli che fanno il coso, come si chiama? Quelli che danno le macchine, ad esempio, no? Per un anno poi le restituisci e te ne prendi un'altra. Come si chiama quella procedura? Come viene? No, il leasing, no. Il leasing, come ti danno anche computer. Le grandi aziende ne hanno 100, 150 e così via. Poi li ritirano dopo, perché diventano subito vecchi e le danno i nuovi. Quelli lì poi se li accappara qualche azienda e li vendono a prezzi stracciati, li riparano se c'è qualcuno guasto, danno la garanzia e ci mettono anche il sistema apparativo regolare, no? E quindi trovi anche macchine buone. Io ripeto, io ho trovato un i5 a un prezzo ragionevole per essere un i5, e guardo da nuovo, non so se sia in produzione, ma penso di sì, costa 600 euro, io ho pagato 200, 220 credo, adesso forse è sceso anche a 180. Forse ce l'ha tra tu, quindi tu è. Ero io, vero, buonasera. Ti ha mangiato, tu? Cosa ci vuole a mangiare? Velocissimo, Franco. C'è Gianfranco, ciao, Anto di nuovo, vai Gianfranco. Sì, ciao Anto, ma tu ci meravigli. Tu non sei come Claudio che inizia a cucinare alle 5 e finisce alle 9, ogni giorno porcetto, poi quindi ti puoi immaginare, adesso facendo la coda, le orecchiette a punta a Claudio. Tu invece da fare una spaghettata così veloce con due spaghetti? No, oggi uova al sugo, e ha fatti la mia moglie. Dentro così va un po' meglio. E quante ne hai mangiato? 10, 15? Una cosa, due mi bastano. Io pensavo che il poco lavoro che fai a fare scale, a portare su, quindi bombe da 15, ma bombe da 15, da 25, da 50, te lo puoi mangiare un uovo in più. Riprendi roba. Io già ne ho visto gente mangiando uova, uno che tra l'altro poi anche è morto, uno che faceva culturismo molto famoso a Sassari, una montagna, ma quello se le mangiava crude, non so, al giorno mi pare 20-25, tu lo vedevi la mattina, se ne prendeva 6 a colazione. Avrà avuto il fegato in gola quello, eh? Lui che mangiava le uova crude fa letteralmente schifo, c'era mio zio, se le mangiava una o due a colazione, direttamente dal guscio, apriva, sarebbe, ma solo a vederlo che schifo, mi viene già. Perché? Ma sta scherzando? Sono tutti che sono. A me non piacciono, però molti se li mangiano, perché fanno proprio bene, sono salutari. Però Antu. Non penso che Antonio se le mangia crude, Antu. Va cosa crude? Sì, faccio l'uovo frullato solo, ma crude così ci tribono i buoni in mezzo all'anchi. Non le mangiano. Ma neanche il frullato, l'uovo frullato, a casa mia diventava uno scemo, io sono a vederlo, babba via. No, a me già mi piace, ma non vado oltre, lo mangio, adesso sono a parecchio senza farne. no, una cosa. No, no, no, non è voglia di quella cosa. Cioè, mangiarlo così senza z, no, non mi piace per niente. Una volta ogni tanto, però mi piace nei gusti. O se no, non è, cioè, non è che io ne mangi tanto. No, a me le uova mi piacciono tanto, non le mangio a quintali, ma le mangio discretamente, dai. Però non più di due. Così, anche io due, tre, basta. Massimo me ne ho mangiato quattro. Massimo, ma non è che io... No, non è che mangi tanto. Mi, un pochettino il pane così, ma niente, misciato nel gusto, ma non sono una persona che mangia tantissimo. Arriva guardando, poi boom, mi blocco. Ehi, vai già fra. Sì. Poi qua non mi dice neanche niente di cosa. Sto guardando sempre quel programma che ho scaricato, perché tra l'altro è anche molto carino, facile da usare, c'è anche il coso della modulazione, nulla, doppio, niente, non c'è, mi dà il messaggio d'errore, ai ai ai, acqua, così è, vabbè, menu, casino. Vabbè, ti volevo chiedere una cosa. Ma che devi chiedere? A te, il capo della saldatrice da verniciare, come devo fare? Il capo della saldatrice? Il capo, il coperchio. Beh, non riesci a farlo, te lo carteggi un pochettino, una bomboletta e gliela butti sotto. Perché cosa c'ha? Rugginoso? Arginoso, sì, era di una decca, il capo di una saldatrice decca, cazzo, mi dà un fastidio qua, perché è arrugginito, perché chi ce l'aveva prima non l'ha tenuta tanto bene, quindi, e poi è passata a noi, ma l'abbiamo sempre lasciata qui, ma mi dà dei fastidio vedere che c'è un capo così. Ma con la saldatrice, cosa fai con la saldatrice, perché la usi per saldare? Allora, ma... Ma fare banane crociate? Ma lo so, perché uno dice me l'hanno regalata, la tengo lì. No, già mi appento a fare qualche cosa, non sono bravissimo, però già mi appento. Quindi muovendi. Ma stiamo parlando dell'elettrodo o filo punti? Elettrodo. E ne avevamo anche noi una della decca piccolina, quando dovevamo mandare a qualche posto così in campagna, così te la portavi appresso la piccolina, ma la nostra è nuova, noi poi ci abbiamo quelle grosse, vabbè. Capo, no, questo è grande, vecchio modello, però il tappo lo volevo rifare, volevo tingerlo e rifarlo. Ti dico che è molto buona quella della decca, caspita, e poi ne ho anche un'altra saldatrice, ma questa della decca, Purugia e Vincia, io non l'avevo provata e funziona una meraviglia. Sì, sì, quella che c'ha, il frontale rosso e il coperchio nero, così? No, il mio coperchio è giallo, hai capito? Giallo, ma originale? Il coperchio di sopra è giallo e dove è nero, capito? Non ho mai visto giallo, le gialle sono quella che abbiamo noi, quella francese, nuova, però saldatrice professionale a filo continuo, salda con tre torce, tre rotoli di filo, quella va bene un'altra cosa. E poi ci abbiamo la Telvil, il nostro stesso va bene come saldatrice. Capa, io ne ho una Club 100, cos'è? E poi c'ho questa decca, che decca è veramente buona, questa a saldare e salda che è una meraviglia, la verità, l'avevo provata di lungo e largo, e qua lì c'è anche elettrodo grosso, penso che un elettrodo a 3-3,5 ce la faccio supportarlo bene. Sì, già vanno bene, le ho viste anche alla Lidl, le stanno vendendo, qualche volta le mettono le saldatrici a coso, a elettro. Sì, già lo so, già, sono quelle switching, quelle nuove, che c'ha Babbo valigetta pure. Poi noi abbiamo della Mase, il gruppo elettrogeno, è molto saldatrice, quella ha un'amica me l'ha regalata, c'erano un cantiere nautico, quella è utile quando non c'è corrente elettrica, deve andare a saldare un cancello in campagna, si prende quella, c'è un gruppo elettrogeno incorporato con la saldatrice, ed è micidiale. Te l'ha regalata! quale costano un bel di nacco, cane? Ti ha fatto un bellissimo regalo. Sì, questo è un amico carissimo e mi ha regalato tante attrezzature. Questo c'è un cantiere molto attrezzato, è della Mase, poi non stiamo parlando di Mondetta, Mase è a livello mondiale il gruppo elettrico. Non so, Guglia, chi c'ha, non costa nemmeno di 3-4 mila euro quella roba lì. Sì, probabilmente sì, è carrellata con le ruote, cioè la spusti come una carriola, beh, c'ha le manici tipo la carriola e la spusti. Anche non lo so, già non so cosa me di soldi costa. Comunque volevo fare questo, già te domando la foto, vabbè, volevo fare bene, ho preso una bomboletta, l'ho fatto così, ho prendo dello stesso colore, dai, io volevo fare bene, lo volevo fare, però vediamo cosa si può fare. Ok, fai riprendere. Andiamo. Sì, Luca, Bomboletta era un artista, non è così, andava fuori dalle strade a scrivere Piero ti amo. No, quella Piero ti amo, io scrivo Roberto ti amo. Lo sai che l'abbiamo scoperto che era Piero ti amo? Allora, quel tipo, quel personaggio lì, adesso credo che l'abbiamo anche arrestato, non lo so se è arrestato, è andato da Mari, ha fatto una cosa a un amico mio, carabiniere, quello l'ha tentato, ne ha fatto un uovo nuovo. Guarda, micidiale, cacchio, la macchina nuova, c'era 3 mesi di vita, la Lancia, siccome, che tra l'altro non era neanche, non so, stava neanche tirando questa tipa, sono andato in discoteca, lui per i fatti suoi, e c'era questa ragazza, che lui era innamorato di questa ragazza qua. E da una fianuta di lui e questa si è avvicinata a lui parlando, discutendo, ma niente di più, infatti me l'ha raccontata tutta la storia. Dopodiché lui era convinto, questo che ti amo, era convinto che la serata del 70 hanno detto, guarda, sinceramente non mi piaceva neanche, ci siamo messi a parlare, abbiamo bevuto di lì. Lui, cacchio, si è invaghito contro di lì, se l'ha tentato, l'ha seguito, ha visto dove abitava, abitava a fianco a casa. Gli ha preso la macchina con l'olio di freni, gli ha disintegrato la macchina. E non fosse stato disturbato, dice, tanto già ci torna, lui l'ha tentato, cacchio, l'ha trovato, ha fatto un uovo. Ma il carabiniere gli ha rubato la macchina? Questo qua, il carabiniere gli ha rovinato la macchina, ma ne aveva fatto di tutto di più, perché poi sono andati a controllare a casa, hanno scoperto che c'aveva, lui usciva con una macchina, vabbè dai, non diciamo altri particolari, una macchina particolare, c'aveva le telecamere nel terrazzo perché non poteva detenere, allora ha preso una marea di denunce della macchina, non so ora perché l'ha modificata, le telecamere non le poteva venire, poi non so cosa aveva, una marea di più, si è pagato tutti i danni, ma migliaia di euro di danni, meno cioccolatine. Senti, guarda, roba, siamo in fa. Mi aveva riempito tutto Sassari questo. Ma te lo ricordi, Gianfra? Hai chiamato? Ho detto, se ti ricordi quando c'era tutto Sassari, Piera ti amo. No, non me lo ricordo, chissà a me. No, non lo ricordo. Poi sono preso da questa cosa, vi ascolto, però sono impegnato, quindi. Solo se necessario, chiamate. Ok, scusala. Luca, tu già te lo ricordi per la tia? Sì, mi ricordo questo nome scritto nei muri, sì. Deve che di là, Luca. E poi l'avevano trovato, questi di una televisione tipo TeleG o Antenna 1, ma non mi lamento, e l'avevano intervistato questo qua. E lo sono detto? Però con l'anonimato, nel senso anche mi sembrava roba Sardegna, come mai scriveva tutte queste cose, ma era una cosa allucinante. Mi ha riempito la città, minimo una cinquantina di scritte da tutte le parti, e ha sboccato tanti di quei palazzi, infatti gli avrei fatto parlare l'ultima lì. Ma perché l'ha fatto? Che l'ha guasto? Era un usano che ti riempie la città, poi un palazzo appena verniciato, nuovo andava, Piera ti amo. Una vetrina, non una vetrina, un altro muro, bello, tutto pulito, Piera ti amo. Guarda, io non ti voglio dire, almeno 50 volte l'ha fatto in 50 muri di vetro. L'ha fatto nella faccia di casa mia, l'aveva abitato a fare da culo. Guarda, mi dava un fastidio perché rovinava le facciate, vedi un palazzo appena fatto, andava a cercare le facciate bianche pulite, non è che andava nel muro qui. Lui doveva prendere le facciate belle pulite. Secondo chi trova, se trova il padrone della casa lo prende a calci in culo. Ragazzi, per trovato la gente brava, secondo chi trova lui cu di volte? fare. Ma guarda, io sono sempre stato di queste persone che è imbrata nei muri, li avrei messi a fare pulizia dei cessi della stazione dove ci cagano e pisciano tutti, perché è una vergogna rovinare, ecco, a Porto Torres per dire, nel quartiere Satellite, quella zona lì, c'è un muraglione, sarà boh 300 metri, e di lì proprio vedi artisti, fanno dei bellissimi disegni, vai, trovati un muro, vi mettete di lì e passeggiate, ma adesso ti fanno questi simboli strani, che ti dice, ma ti pare che devi sporcarmi il muro tu con questi disegni, queste lettere strane che non ci comprende, perché uno dice, beh, ti faccio un bel disegno, un qualunque cosa, nulla, ti sporcano il muro per metterci questi cavolo di simboli. No, io la penso così, non lo deve proprio fare, perché oltretutto se la casa mia l'ho pagata io, il muro l'ho pagato io, a te chi cazzo ti dà diritto di fare queste cose? Trovandolo l'avrei preso tutta a calci in culo. Guarda, io li ho trovati una volta due ragazzini, ma avevano 13-14 anni, non si valevano uno schiaffo, con lo skateboard. Io mi seguito, avete incontro, lui solo appena l'ho visto, se sono, hanno buttato le bombolette, l'avevo seguiti. No, non abbiamo fatto niente, come non hai fatto niente? Okay. E cosa li fai? Se chiami i genitori o cosa? Una volta abbiamo tentato, ma che c'eravamo le macchine dentro l'ufficio, fuori l'officina, le macchine nostre, la mia, di mia sorella, di mio cognato, cacchio, tutti i giorni passavano e le trovavamo graffiate. Ha detto, questi sono i ragazzi delle scuole medie, sicuramente, cacchio, li abbiamo tentati. C'era mio cognato, si è nascosto dentro la macchina, c'aveva allora la tempra, si è messo dentro, come è passato quello lì, trrà, gli ha graffiato, ne è uscito la macchina, subito l'ha bloccato, adesso chiami immediatamente i tuoi genitori, ma non ho fatto niente, come non hai fatto niente? Allora trovava la genitore, non è che l'ha sgridato, no, mio figlio non ha fatto niente, non ha fatto niente, sono i roghi, alla fine ha detto, beh, faccia una cosa, e si ricordi, si controlla il suo figlio che prima o poi fa qualcosa, difendendo il figlio, tu non dire niente, non hai fatto niente. Non ha fatto niente, da mettere i signori d'occasione, te lo insegno, lo sai che se avevi le telecamere lo denunciavi, la famiglia ti avrebbe dovuto pagare la macchina. Non le puoi usare le telecamere, lo sai tu, perché ci vuole autorizzazione per le, solo per questioni di coso, ci devono essere situazioni particolari, non è che vuole la telecamera, c'è la tutela della privacy, non è valido anche se c'hai incidente o cose del genere, a meno che non ci siano delle cose gravi, se no non vale neanche per l'incidente. Non è esatto. Ascolta un attimino, a me di quello che dicono non me ne frega niente, però dico una cosa, che tu davanti alla telecamera, che non è poi non è così, che tu mi stai danneggiando la roba, che tu mi stai danneggiando la roba, non c'è Cristo che tenga, io ti ho visto, mi hai danneggiato la roba e me la paghi. Allora dobbiamo fare così, come li vediamo? A caccia pugni a faccia, quello che si è visto. Sì, allora siccome tu sai, io ho un nutrito sistema di telecamere, ce l'ho anche nelle macchine, e ovviamente si presenta che qua tra l'altro sono carabinieri, poliziotti, finanza eccetera, e spesso mi hanno chiesto, mi puoi dire chi è la macchina che è passata eccetera eccetera. Non solo, ma se leggevi il giornale anche recentemente, il comune, esattamente la polizia locale, ti chiede se puoi mettere online le tue telecamere, quindi se puntano da qualche parte eccetera, loro si potrebbero collegare al tuo impianto per aumentare la sicurezza dei cittadini. Poi, se questo non basta, ci sono una marea di sentenze della Corte Costituzionale in cui non è assolutamente vietato né macchina né fuori inquadrare, diciamo, il traffico, le altre vetture eccetera, perché comunque sono strumenti atti alla sicurezza. Ma benché quello che non capisce, che dice vietato, che non è vietato, è un'altra cosa, è mettere le eventuali registrazioni a disposizione del pubblico, quindi online, farla vedere, che ne so, in un cinema e tutte queste cose. Poi, riguardo alla validità dal punto di vista giuridico, è facoltà del giudice dire sì o no. Di norma dicono sì, perché le cronache di tutti i giorni sono, parlano da sole, con comunque ti posso assicurare al 150% che sono sentenze che non hanno, che non vietano assolutamente l'uso di telecamere. No, non sto dicendo che sono vietato, devi chiedere l'autorizzazione, quello che dici. Assolutamente no. Perché cosa? Perché c'è una telecamera. Semmai puoi fornire tu l'autorizzazione ai vigili urbani, dando un indirizzo IP, o polizia locale o quello che è, se vogliono controllare se sia una zona particolarmente a cui a loro interessa. C'era l'articolo sul giornale, ti colleghi e loro tramite la sala operativa danno un numero che tra l'altro può servire anche a te per stare tranquillo se c'hai, che ne so, dei garage, delle attività commerciali e così via. Allora lo sai perché te lo dico che così? Io e mio cognato, io non l'ho messo ma dovevamo mettere, a fianco a noi, non ti dico l'attività, li hanno costretto a togliere lì perché erano nella pubblica via dove passavano delle persone. Tu se ti metti la telecamera devi solo inquadrare il tuo ingresso, se tu apri il campo visivo e oltre il tuo ingresso devi chiedere autorizzazione e non è detto che te la diano. Questo gliel'hanno fatto spegnere, quello a fianco a me, tra parentesi. E poi ti faccio un altro esempio, poi naturalmente sentenze ne esistono di tutti i tipi. Un carrozziere, collega, aveva questo suo operaio che se ne andava in malattia facendo il furbo, sempre certificati, per la fine, guarda che sta lavorando in questa officina qua, questo qua è andato, l'ha registrato di nascosto senza farsi vedere, è andato dall'ispettorato del lavoro denunciandolo eccetera per bloccare tutto quanto, questo a sua volta l'ha denunciato per violazione della privacy, si è dovuto pagare le spese di risarcimento a questa persona qua. Qualcuno dentro l'officina o cose del genere mette le telecamere per riprendere gli operai se stanno lavorando bene, denunciati, per quello ci sono tante sentenze esattamente al contrario. No, non è assolutamente così, è molto, la cosa è molto diversa, dipende dallo scopo, ecco, se la telecamera inquadra perché tu stai tenendo le tue serrande sott'occhio e passa qualcuno, non è colpa tua, l'importante, ripeto, perché c'è un casino di gente che fa confusione, è tenere questi filmati a uso esclusivo di sicurezza e non a diffonderle al pubblico. Cioè, attenzione, perché molti si confondono, non hanno capito. Una cosa è che tu tieni l'immagine, io le immagini ce le ho registrate sulla disk e non vengono diffuse, dopo un tot di periodo si autodistruggono e riprende il ciclo, però anche perché comunque è una proprietà privata. Inquadra anche la strada, ma la inquadra perché deve assolutamente inquadrare anche tutta la via di accesso, perché c'è, come si chiama, il reticolato, dai, quello che c'è, la rete, e quindi per evitare intrusioni c'è un sistema fatto così, ma se ne vedono tantissimi in giro e non è che, anzi quasi tutti qua ce l'hanno. Anzi, la polizia ha detto meno male che c'è alcuni che ce l'avesse. E poi ripeto, sono sentenze di giudici, ma basta farsi un giretto su internet. Diverso è se tu inquadri una persona, quella persona, e poi diffondi così in rete. Riguardo alla registrazione, io posso benissimo, se ti devo incontrare e parlare dei nostri affari, che ne so, se mi tenti una corruzione ad esempio, ecco, ti dici guarda, io ti do 100.000 euro per fare questo, io ti registro a tua insaputa e quella registrazione a tutti gli effetti legali è valida, perché stai portando alla polizia giudiziaria una prova di un reato, anzi ti dico, ti ringraziamo pure. Sì, hai detto bene, in caso che ci siano delle cose penali, reati, però se tu stai facendo una macchina tua e si sbatte uno, se ne scappa e tutto quanto, quello lì non è una cosa penale, è una causa civile, per cui bisogna stare attenti con quelle cose lì. L'altro giorno, qualche mese fa, c'aveva mio cognato, siccome passano la nostra via e passavano i cani e sporcavano, alla fine bisogna che... Ecco, sono passato adesso, ho detto, e non c'era niente. Dopo 10 minuti passo, oh cacchio, qua c'è una bella cosa di cane, è andata a controllare, lo vedi il tipo, ha alzato lo sguardo per vedere se c'era qualcuno e se n'è andato. L'abbiamo tentato, oh bello be, come mai tu sei, no, ma non eri tu, ma stai scherzando, ecco, sei stato registrato. Però lui, se tu diceva una cosa del genere, ti poteva denunciare perché tu hai fatto un abuso. Ah, c'è culo, mi sei buone. Lui alla fine si è ricreduto, scusate, mi sono dimenticato quello lì, però se tu trovi un avvocato di quelli tussi, dice, oh, tu l'hai registrato, l'hai anche minacciato, perché possono dire che l'hai minacciato, e devi stare a te. Guarda, tutto tremando lo Stato, guarda, se non ti nandi dirò do guio, ti dà fattura 70 in 2 minuti, scemo, cazzo, non si vergognano nemmeno, avanti Gianfra, scusa se... No, anzi, allora, ti ripeto, tu stai cadendo, e chi le ha detto queste cose, perché se andava in tribunale sarebbe stato sicuramente assolto, perché oramai cosa biccia questa, non è che uno si mette a letto le camere, eccetera, eccetera, e fermano anche le macchine, cioè sono di tanti tipi e per tanti usi. Comunque, posizionare una telecamera, faccio l'esempio dell'automobile, perché è il classico, è quella che riprende più persone, più autovetture, targhe, eccetera, è perfettamente legale e non è violazione della privacy, purché si seguano alcune elementari regole che interessano tutti i dati personali. La prima cosa, l'uso delle riprese video deve effettuarsi soltanto a uso personale. Quindi si ribadisce nelle varie sentenze che queste cose sono a uso tuo per la tua sicurezza, non per metterle su YouTube. Quello è il concetto che la gente non vuole capire ancora. Ti è chiaro, Robè, quello che si può dire? Poi se viene un vigile che non ne capisce un tubo, dice alla telecamera perché sono voci che sente, poi dice, ma io non ho problemi, faccia subito la denuncia, le fai fare una piola di merda. Allora, nelle aree private non lo metto in dubbio, poi tu mi stai dicendo una cosa che io non sono aggiornato, ma è cambiata la legge. Quella persona che stavamo parlando prima, che ha sporcato la macchina, lui aveva la sua telecamera sul terrazzino, ha fatto degli atti, diciamo, che non doveva fare perché ha rovinato una macchina, sono andati i carabinieri, l'hanno denunciato perché lui stava utilizzando questo sistema di videosorveglianza non autorizzato dalla pubblica via, anche se poi non ha messo niente in circo, non si sa niente, però l'ha denunciato per un abuso. Poi non so come sia andata a finire, poi mi dirai il giudice non gli ha fatto niente a non procedere, eccetera eccetera, però lui è stato denunciato dai carabinieri. Io sto parlando almeno 12-15 anni fa, dai, 12 anni fa questo fatto è successo, e ha preso una denuncia perché è successo, un amico mio gli ha fatto dei danni alla macchina, poi sono andati a controllare altre cose, poi alla fine si è scoperto che c'aveva anche questa telecamera sul terrazzino, lui l'aveva puntata per controllarsi la macchina sua e l'hanno denunciato, non so poi cosa le abbia fatto il giudice o che cosa, però lui ha preso una denuncia perché aveva fatto un abuso. Sì, comunque io ti dico che c'è la certezza, a parte delle sentenze che fanno testo dal punto di vista legislativo e compagnia cantante. Comunque mettere una, guarda, addirittura per dirti nulla, le assicurazioni stanno mettendo quegli affari nella batteria, no? che possono fare tutto quello che vogliono, vederti il percorso, vederti la velocità, vedere dove vai anche, insomma tutta una serie di dati che potrebbero essere anche sensibili è un altro tipo di dato, però potrebbero essere, diciamo, sicuramente sono personali, capito? Su questo la legge è molto chiara sul fatto che queste immagini devono essere tutte, in ogni caso, a uso personale, possono essere visionate in maniera senza particolari autorizzazioni dall'autorità giudiziaria, dalle assicurazioni in caso di incidenti, da avvocati e periti. in quel caso possono essere, se le possono chiedere, c'è la telecamera, sì c'ho le telecamere, mi dai tutti i dati da A, tutto lì, queste sono leggi, insomma non certo di 12 anni fa, 12 anni fa le telecamere, a parte che costavano un pacco di soldi, adesso le vendono al supermercato, quindi. Sì, se no io sono favorevole alle telecamere, deve esserci, addirittura dovrebbero favorire l'uso delle telecamere, perché è in modo che quando succede qualche evento pericoloso riescono magari a vedere da dove è partito, cosa ha combinato, eccetera, eccetera. Guarda, forse le leggi sono un po' cambiate da un po' di tempo a questa parte. Comunque io dico una cosa, se quell'operaio avrebbe fatto così, a me bastava solo la parola di dirmelo, era andato io di persona lì, Guarda, io se ti racconto sentenze di cose strane, gente, non parliamo di quei fatti di Vito che ha sparato allo Zingaro, che gli hanno chiesto il risarcimento anche ai parenti per i danni morali, perché sono entrati in depressione, non riescono a dormire la notte, gli hanno dato le medicine, non so quanto ha dovuto dare quel benzinaio che ha sparato a quello là, che tra l'altro non l'ha neanche ammazzato, io parlo tanti anni fa, che l'aveva ferito, i parenti, un fratello, la moglie, eccetera, hanno chiesto danni morali. E allora l'abbia detto, andate a venire la cucina, voi prima venite a rubare e poi rompete le scatole, ma che non si ammazzano i danni morali, l'abbia arrestato i tutti, per carità, anche i giudici fanno schifo, avanti. Sì, quella è un'altra cosa, perché c'è anche dei reati da tenere in considerazione, ad esempio l'eccesso di legittima difesa, ma quello è un altro discorso. Mentre il discorso della privacy è una cosa un po' complessa che molti non capiscono. Io purtroppo per quasi una settimana me l'ho dovuto sorbire perché fa parte del mio lavoro. E quindi dati personali, cos'è il dato personale, cosa sono i dati sensibili e cosa sono i dati personali, cosa sono i dati altamente riservati e così via. Quindi c'è tutto un insieme di gradini che uno deve saper bene, saper conoscere, perché fanno anche parte di tantissimi lavori. Se i carabinieri sono andati a un'altra cosa del genere, io avrei detto sì, fate pure, non c'è problema per me. Però le telecamere rimangono lì. A parte che adesso penso nessuno si sognerebbe di dirlo, perché ci fanno una brutta figura, ecco. Così come la farebbero nel caso ti fermano e ti dicono lì c'è il baracchino in macchina. Sì, c'è il baracchino in macchina, non ancora neanche autorizzazione adesso, quindi neanche denuncia, niente. Quello magari è fermo al 1960 e ti dice no, adesso deve essere un cristiano, lo sequestri pure, è tutto omologato, però se lo guardi bene, non c'ha lineari, questa è un'antenna, anzi lo fotografi pure, sì, vedrai la figura che fanno. Il limite di potenza ancora c'è? Non ho capito. Il limite di potenza c'è ancora? Assolutamente sì, nel momento in cui superi, credo che sia di 4 o 5 watt, 5 watt d'apparato e 4 watt in antenna, adesso non me lo ricordo bene, comunque entro quei limiti 4 o 5 watt, se superi quei limiti e l'apparato comunque non è conforme al marchio CE può essere immediatamente sequestrato. Se poi è in uso un apparato amatoriale, quindi con capacità di trasmettere su altre bande, allora c'è il sequestro, la sanzione amministrativa e può anche essere probabile una denuncia penale. Come tutte le cose, sempre nel momento che tu vai a rompere scatole agli altri, perché se no, se sei tranquillo e cosa, nessuno ti zecca. Penso che Roberto sia d'accordo, a volte anche se sei tu a non cercare qualcuno, sono gli altri che cercano a te. Ce ne sono tanti casi che sono capitati anche qua. Ci sono gente invidiosa e fermiamoci qua, dai, non diciamo altro, purtroppo la cattiveria esiste e fanno in modo di vendicarsi o di creare dei problemi. Non facciamo nomi chi li ha subite, ma già ce lo immaginiamo. Buonasera a lei. E beh, signor Ruggeri. Allora, ciao Roberto, amico mio, buonasera, di nuovo a tutti. Gianfranco, vai. Sì, Eugenio, portatore, deve fomentare, se no poi dice che non mi sente. Ecco, da 2 watt passiamo ai 4 watt canonici. Ciao Eugenio, mi senti? Sì, tutto bene? Com'è il mare, il tempo? Ciao Gianfranco, buonasera. Buonasera, ti sentivo anche prima. No, il mare già è buono. Il tempo non promette niente di buono, però oggi il mare già era buono. Dici che c'è anche Antonio qua, vai Antu. Ehi, buonasera Eugenio. Ciao, bambola, e allora? Allora, va bene? Sì, sono arrivato a casa, finito di lavorare, e niente, tra un po' me ne vado a masticare. E ci avessi a mascette di volte, lì. Ehi, chihuahua. Tutti i cinghiali ci ha preso dalla zona, Claudio, Eugenio. È vero, poi... siamo di arrostita al campo. Ma che mi avesse uno oggi avuto un tiro di palla, siamo andati a ritirarlo, adesso il mio vicino lo sta usciando. Allora chiamami, che a me già mi piace il cinghiale fatto al sugo mezzo piccante, cosa hai da? E io lo faccio in tre maniere, lo faccio col sugo i gnocchetti, lo faccio in agrodolce, lo faccio il sugo senza niente, tutte cose. Allora, fammelo col sugo piccante a me. Ma a te Claudio ti piacciono le orecchie soprattutto? No, a me non mi piace le orecchie, mi piace la coda. L'ho immaginato. Le unghie sono buone. Attento Cicco! E caro che c'è un Cicco? Tu sei Cicco. Ah, io sono con Cicco. E lo Cicco. Te l'hai visto Antonio? Si trasforma, cazzo. È troppo dolce, si trasforma lui il sabato, si trasforma a Lambe Caraibi, diventa Cicco. Si vede i cantenni che è uno spettacolo, robe, eh? Non te ne ha mandato il video? Sì che me l'ha mandato. A Massimo Ranieri fa un baffo, Antonio, era Antonio. A Massimo Ranieri. Per il bella. Garganella. Ciao Luca, mi raccomando, lo sento bene oggi. Oggi lo sento bello forte. Ciao Luca, amico mio. Ehi, amico mio. Sono a casa della mamma, dai. Ma ho trovato al barbiere per l'antenna, era un po' lì, mi sa che lì è trubumba, bimbo, tabu, e io me la puoi prendere, mi ha detto, ci manterò, ehi, ma smontarlo è un casino, non fa, non ti preoccupare, tu vengo io, me la smonto io. Sì, andiamo, ci dirigiamo lo dubbo direttamente, il trio da giotto, una mola, e traccalo con la corda e la piattiamo diretta. Ah no, così ho fatta la situazione. E a 50 metri lo devi smontare, in terra ne accendiamo, la caliamo con la fune, voglio 50 metri in cannao, la leo, da sotto lo piantona, io prendi, porta a casa, la piantiamo già pronta. Ecco gli radiali Luca, è buona l'idea di Claudio. Allora no, caspita. Massimo Ranieri che intende, hai capito lui? Ne togliamo, si smonta il tubo e tutto, intero, così com'è, si smonta anche il radiale, te la calo con la corda, la pigliamo a crudo e te la faremo. Sì, allora, voglio fare così, allora, si smonta, si butta giù, si fa pezzi, si pulisce bene, quando la terra so che è pulita, che è a posto, ci fa la trattura del, come si chiama, sembra la sempre, comunque, si fa la trattura del, aiutami, come prendere quelle stazionarie, una volta che la tenere a posto, smonto questa qua, lo stesso, faccio lo stesso lavoro, la pulisco, questa si conserva, mi piace di Sasuglia. Ah, quella è tarata, Lu, quella è tarata, Lu, già. Se portiamo un rosmetro, va, e metterò con più nulla, o ci virà, si proprio trattenere, se c'è uno e uno trattenere, lasciamo così, non si tocca. E smonta il radiale di raggare con la gorda, la bella macuta e se la buttiamo. E si pulisce lo stiro intero, senza toccarlo, senza smontarlo, con la acciaio, si pulisce tutta e poi si piazza, senza toccarla. A modo di candarini. E poi ci vedrà, là. Già, ci vediamo, se decide, la trova in Russia. È bicicletta, ma non ha più macchina. Domandata Luca, ma te c'è un po' di buco, no, non si tocca, non si tocca. Ebbè, Saverio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Pomporino, speranza che tu mi ascolti, cambio. A voi ti ascolto, Roba e Vetti, Radio 5. Andave, Pomporino, tutti nello stesso. Ci ha passato un bel segnale, Saverio, come mai? È liscio, ma quanto ti arriva? A te, mamma, mi arriva 8, mi liscio. E 9,5 quando attacca, a te quanto ti arriva? Allora, stasera, quando era liscio arrivava 9, quando era attaccato 9,10, adesso è 7, non ho capito perché. A me mi arriva sempre lo stesso segnale, 8 liscio e 9,5 attaccato. No, a me è 9,20, la verità 9,20 è qualcosa, che arriva forte a me. No, aspetta un attimino, adesso io sono con... Hola. 4 watt, fatto scaldare, palacchino e poi facciamo delle teprofe. Vabbè, ancora voi siete vicini, capite, sono lontano. Però è un ottimo segnale con quell'antenna della macchina, dai, va benissimo per me. Beh, Savi, guarda proprio il microfono. No, volevo, visto che c'hai, mi facevi un coso, volevo fare giusto, stasera invece è fuori, ha chiuso. Un vocale con il microfono da tavolo. Adesso vabbè, c'ho il palmare, c'ho l'originale suo. Senza attaccare però fatelo fare l'audio, capito Sabri? Senza attaccare niente, come l'abbiamo regolato noi. Lo attacchi così e Luca ti fa l'audio, te lo manda, che è quello più vicino. Certo, basta. E allora, adesso che lo faccio così, aspetta l'attacco. Allora si può affrucciarmi sopra, capito? No, non deve fischiare. Se l'hai lasciato come l'abbiamo attaccato, non deve fischiare niente. Capa! Comunque ti sento benissimo, ti sento, dai. Ma non hai travagliato oggi, sai? È libero oggi, è lunedì. C'è il fratello, devo essere. E si conferma. Capa, perché infatti hanno... Il mio principale ha ordinato la pizza oggi. È già aperto lunedì sempre. Sì, a riposo lui. Già va bene, kappa. Capito Lucarie, fermo così, se te la va tu avvisa, ma poi a Marrangio, la smontiamo, la corda e via, cosa, cazzo tre piani, quattro piani, quanto sono, ma cagata, perché mi ho sceso il tubo della direttiva da 30 metri, non ne farò viscio, e si porta via intera, senza toccare niente, perché se la tocchi fai danno, magari tutto si dà, capito. Invece si lascia così, si pulisce bene, si dà un'altra passata di nastro vulcanizzante sopra quello che c'è e si biatta e vamo già a playa. Sì, però prima di tutto volevo fare le staffe nuove, là. Ah, sono Roberto, ma lo stavo dicendo per quanto riguarda quelle che mi stava dicendo lui, quelle in acciaio, oggi lo facevo zingato, cosa sono? Sì, quello zingato. Vabbè, già ti aiuto io Luca, dai, quando devi fare qualcosa. No, tanto vabbè, vanno murate. Capito, vanno murate. E non le metto a tassilli, perché lì è un casino, non fassino. E una volta che è tutto asciutto ci piaceva di tutto quanto qua, però a nuovo anno, adesso non fa. Ma se sai faccio le tegole a mille un pezzo. No, ci possono fare questi lavori così lui, Nagio di va così io. Sono a metà. Ho iniziato i lavori esterni, i muratori hanno dovuto mollare, faccio un tubo sì, del canale di leva, un tubo no, un pezzo sì, un pezzo no, è tutto hanno dovuto mollare, è tutto bagnato, non fa, capito? Non attacca il mastice, il silicone, però usano dei materiali plastici, è un casino, no, non fa, bisogna fare le cose a tempo bello, se no esce una gaga. Ma Gianfranco c'è, Gianfranco! Sì, ci sono ancora svegliando con quello là. Per Roberto, per darti una piccola idea, quando è in funzione senza fare niente lui già si sta ciucciando il 75% di memoria. Quindi ne rimangono circa 500 mega per l'esecuzione di eventuali lavori, il che ai tempi di oggi è praticamente nulla, è per quello che, anzi è quasi sicuramente per quello che si impalla. E quindi di lì il guaio, vabbè, cosa vogliamo fare? O ti trovi la memoria, oppure, non so, è sempre che sul discorso, una macchina vecchia, più di tanto non ti puoi spingere. Vabbè, comunque dai, ne approfitto per salutarvi, smonto che ci sono da stesso, se no è un macello. Ci sentiamo alle prossime, a domani, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Gianfranco, alle prossime, vediamo se avvi. Ciao Gianfranco, comunque Ricci, io sono appena rientrato da mangiare. Avanti fra, sei felice, Ma questo è il microfono di tavola? Il microfono di tavola, sì. Perché non sto uscendo? Ciao Gianfranco, alle prossime! Alla grande! Aspetta che saluto a Gianfranco, ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, buon tutto, Vai di nuovo, salve! Via, ok, io ho già salutato. Luca Rie, mandami un audio, aiuto! Ma l'antenna che sta dicendo Luca, quella del barbiere? Sì, la barbiera di Siviglia. E non piazza, sì o no, sarà un mesetto fa. Detto, no, adesso mi rimetto la stazione. Perché ti la ghi di frangi, boh. Arrivano da me, ma è un baracchino, io. Vai, qua, ma non ve l'hai detto. Grazie, lui, a Sabigli, a te proprio vuoi, tutto vuole il capo, Sabi? Ma è vero, tu. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vabbè, pazienza. Sabi? Pronti? Dille a Luca, se deve scendere l'antenna, che conosci una persona, quella che te ne ha tolto la tua, tu le direi là come te l'ha fatta questa antenna. Ora, non so come scende. Ora, diciamo che Luca era andato a vocale. No, già che scende. Perché sono le particioni. Non si smonta l'antenna in quella maniera, capito? Non è smontato la uffa di antenne. Piano piano, capito? Piano piano. Perché Guramore, Giannacchino facevano i dubbi. Tu vedi come l'hanno distrutta con l'antenna. Io ne ho tolto quella di Salvatore Maestrale, la Marto Vattuno. Perfetta, tranquilla, non ho rovinato niente. Luca, troppo corto come hai fatto questo passaggio, questa registrazione. Ma Luca, ci sei ancora? Ma io, non parlate un attimo, scusate, mando questo audio su WhatsApp. Ci sono qua. Ma io, fai questo passaggio, vai. Vai un po', Lucariello, come ascolti arrivare a Cialonda? Cambio e passo. Vendo, compro e scambio. Mandata. Una bella modulazione, Sabri, va bene. Perché io, robe, cosa feci? Quando l'ho tolta da carbonati per portarla qua, me la sono tutta pulita, però non l'ho smontata tutta, l'ho fatta solo in due pezzi, ho tolto i radiali, il piantone col primo pezzo l'ho lasciato stare. Poi quando sono arrivato qua mi sono messo al giardino, l'ho tutta pulita, fatta, ho messo le fascette nuove, i bulloni per l'innesto del tubo li ho messi nuovi, una cera inossidabile, perché erano di ferraccio, ho messo tutte le fascette nuove, tutte rivulcanizzate e montate. Non gli fasciato nulla, per bisogno di fascia tutto. Infatti quello che hai detto tu a Luca non è scherzo, è la cosa migliore, non lasciando intera, metto gli radiali, una bella corda legata bene in modo che non scivoli piano piano e si prende tutta quanta intera, tanto quanta abita, 200 metri lui. No, 100 metri. La discesa siamo arrivati. Salve, sta innescando col lineare attaccato. Ora. Appena ancora bassa. Non toccare i toni, Non sei uscito. Col lineare non lo puoi usare quel microfono, non c'è niente da fare. Eventualmente è rientro di RF. Cosa ci avete? Ma io uso il microfono normale, lineare, o se no devi usare il microfono normale come l'abbiamo regolato noi a 6 e i toni a 0, è blu. No, scusate, ma c'è Antonio, ritorno di RF, e sicuramente Antonio, c'è un antennino di macchina, ma non va bene così, attaccato a un pezzo di ferro in terrazzo, non va per niente bene. E adesso ho messo il microfono originale, e Lucariello, fanno una registrazione, se la radio è buona o un microfono originale. Beh, mi pare precisa, ma comunque dato solo la registrazione, vai. Guarda un po', vabbè, e conta che adesso poco fa ero con il microfono da tavolo, però senza mazzo. Adesso sono attaccato con il microfono originale. Avanti. Mi hai mandato, ecco qua. Un pochettino di cosa si sente tra me. E io come sono che adesso sto usando potenza? Sì, a tutti i forti, 7, cazzo, più veloce di sogguio gli occhi. Sicuramente Balluca, ma Antonio, se mancava la risata Antonio. Siete tutti attaccati, cosa volete provare? Prova tu qua. 1, 2, 3, prova. Da 9.10 a 9.20 vai qua. Forte, forte Antonio, anche qua. Qua c'ho per 3 in pieno. Arriva forte, forte, forte. Ah, grazie. E rimane sempre fatta, siete vicini. Non si fanno queste prove così, in lontananza, cioè più lontano sono io, quindi le prove le potete fare con me a chiedermi un controllo, ma se le fate tra di voi siete troppo attaccati. Certo che sì, c'è ragione. Perché poi cosa succede? Cazzo, arrivo 9.30 da Roberto, 9.20 da Claudio, cazzo, il traghetto di Alghero arrivi anche allo Zinco, capito? È lì il problema, le prove si fanno con quelli più lontano, e se no non riuscite a capire dove bisogna migliorare, capito? Mi pare che io arrivo a 8 attaccato dal Ghero. Figurati, arrivi 8 attaccato dal Ghero, io arrivo 9 liscio, capito? È così, è così. Con quelli vicino non si possono fare queste prove. No, io l'ho sempre detto. Cioè dentro Sassari tra di voi non serve a niente fare prove. Sempre lontano, in modo che capisci qual è il problema, capito? Adesso perché? Già lo sai, questa cosa ogni tanto non vuole utilizzata, perché sennò è un casino. Antonio, che antenna stai adoperando? Io? Io non sono più alla Tenolce, no. Io ho abitato a Sanivecchio adesso. A Ringolem. Positivo. Ma è l'antenna che sto montando io, lo puoi fare? Sì, sì, arrivi forte, alla grande. Kappa, questo è il modello vecchio, eh. Oh, modello vecchio, modello nuovo, funziona bene. Comunque io ne mangiamo un bel panettone con la crema di pistacchio. Se non vi piace, mi dico un bel sfumantino dolce. E io avevo mangiato adesso cioccolato con la crema di pistacchio dentro. Buona, buono, buono. Bravo, la veniva la croccante, cla, a gusto di pistacchio e mandorle. Ehi, a Salotto Caffè propone Ilaria, così era. Un ultimo fiasconaro artigianale. Allora mi voglio che sei con una giuccia sul barettone. E lui è come sto. Vai Roberto, vai, ci sentiamo tra 5 minuti. Ehi, allora io non ci sarò, sto chiudendo adesso, infatti stavo aspettando per salutare. Ciao Claudio, ciao Luca, ciao Antonio, ciao Saverio e tutti gli eventuali ascoltoni con le orecchie di porco, come diceva qualcuno. Io faccio corretti, ciao ciao e buon proseguo a tutti. Ciao ciao, ci risentiamo. Quanto è 35 da te? Da chi? Da Roberto. Tu quasi 35, sì. Andave. E qua non è più 30 lo stesso. Bene, non ci sono problemi. Forte e chiaro qua. Dai Roberto, buon corretti, buon riposo, buon lavoro per domani. Ci sentiamo domani, ci coincide. Ciao Roberto, ci risentiamo. Riempila di grasso di vasellina quell'antenna, e se prendo umidità salgo un pochettino nel stazionare, ma a me non mi batte nulla perché l'ho delusionata bene. Ma è già vero, i buoni vasellina sotto la coda di antenna. Il mio è il modello nuovo AT94, l'ultimo modello della Ringo. Prima c'era il problema quando pioveva, ma salivo le stazionarie. Questo modello nuovo non dovrebbe farlo perché l'hanno modificata, capito? Ma no, il mio è modello ancora più vecchio e dovrebbe andare bene questa. Già gliel'avevo parlato con l'ingegnere della LEM, gliel'avevo detto. circa 30 anni fa. Non sei uscito? Sorprendiamo quando pensarlo, come va? Ma penso che dovrebbe andare bene. Allora su questo nuovo attimino che tu ti va più la Magnum 27, la Lem sempre. Quanto è che ti arrivo io a segnare tu? Con questa svizzera, 9.30. Scappa anche tu. Prova il cartino. Capito, sale. Fai un passaggio che ti attimo. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3. Fai un passaggio tu, Luca, Luca. Hola. Ok, ho capito, avanti. Ora, arrivate lo stesso segnale, soltanto che tu sei liscio, anche un aranciato. Ma che la dici vatte, 7 watt? Cosa? Tu mi dà, 7 watt. Il tuo? Vabbè, io non molti di più. Vabbè, lui è al monte, io sono qua, sono. Calca un attimino. Hola, chicos. Però ci aspetta che c'ho pochi watt, 2 minuti. Hola, guarda a vedere adesso. Cioè, adesso segnale attenuato, non arrivi, però ti sento in radio. No, la radio mi piace più così, è più pulita, più amplificata. Capo, aspetta che me lo rimetto come era prima. Hola. Era così già. Hola. Ecco qua. Che microfono stai usando? MB4. Capo. Oh, va bene, esci, pensi. Aspetta che cambio con l'altra, che questa non ti ha fatto andare, insomma. Ma la radio? Mi piace il mio altro baracchino. La radio che è meglio. Adesso cambio. Andare. Positivo e Caparrocci. Eccomi qua, questa com'è? Saverio? Sì, sto passaggio. 1, 2, 3, prova. Non sei uscito. Ho detto forse appena migliore questa come radio. Non credo già. Eppure tutta una tecnologia, questa costa due volte di più di quel baracchino lì. Luca! Oh già! Ah già, ci sei già. Mi sono in occhio. Sto recuperando un po' di chips al poker. Che radio stai utilizzando? Il K. Ah, da qua. Sempre vedato un escibo, lo sei fatto sul microfono? No, c'è il coso prolungato, capito? C'ha i fili dentro la prolunga che è collegata e quindi ci cade ci vuole il cavetto da sotto. Ciò bene, mi metto lo spinotto su, dove mi compro che ti attacchiassi in punta? Quando mi hai mandato la foto, tu hai detto lo cerco, se lo vuoi. Mi dato un esci. Capito, Savi, vuoi cosa a 4? Te lo cerco domani. Cappa. Ogni tanto, questa è una radio professionale. Capito, Savi. Sì, ma la stai usando un microfono originale? No. E che microfono ne c'hai? Bello, questo è un bel microfono. Chi non si intende cos'è? Già non ci sei santo. Bravo. Adesso sono ritornata alla normalità. Anche qua non sto dando tanti watt. Poca roba. Te pure un gruppo. Già andava così da. Ciappa. Positivo e Gavarocci. No, a me piace il gruppo, il 2009, è bello, mi piace un sacco. Sì, è bello, Ci assomiglia tipo il superstar, così. Ma quello lì è modificato, vero, Salve? No, quello lì è incendiato. No, il tuo. No, ce l'ho più. Eppure il bip è uguale, quello modificato. Ehi, agapagate, locarie. Ehi, che bella. aveva ragione, frate? A chi? Ah, sapeva che il mio c'ha il frontale, c'è trovato la foto, no? Il piccolo matto. No, tu non lo ricordo, aspetta un attimo, non la foto. Ciebe, frate, che positivo, frate, dai, non ci sono problemi, che cappa, cappa. Ya. Cazzo, non leggendo una cosa. Con i pomelli cromati, Lucarie, pomelli cromati. Cappa, cappa. Olla, olla, la cipolla. Mi piacciono gli amplificatori, mi piacciono più che gli apparecchi. Vabbè, l'apparecchio ci vuole, eh. Sarebbe meglio un giccio. Allora, questa è la foto, Luca. Aspetta. Ti ho appoggiato i pomelli, come ti sembra? Toga così, toga.